Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, 16:34, Luca Tremolada, Sandro Mangiatera, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo qui un ricercatore di biomeccanica che ci farà scoprire un po', che la parola fa... Ma poi parliamo di calcio, parliamo di scarpette, di piedi buoni. In realtà stasera gioca la nazionale, noi parliamo di calcio. Certo. Parliamo certo. Del doping tecnologico, cioè di come riusciamo a si costruiscono delle scarpe che fanno... No, perché appunto, una volta si diceva che i calciatori dovevano avere i piedi buoni, no? No? Invece la verità è che noi abbiamo scoperto che devono avere le scarpe buone. E abbiamo uno scienziato che ci spiegherà come funziona esattamente questo. E perché se non hai le scarpe buone non hai neanche i piedi buoni. Prima le news. Neutralità di browser sui PC con sistema operativo Windows. Entro metà marzo, gli oltre 100 milioni di europei, i cui computer sono equipaggiati con il sistema operativo Windows di Microsoft, si vedranno automaticamente proporre la possibilità di installare un altro browser, il programma che serve a navigare su Internet, da utilizzare al posto di Internet Explorer. Diventa così effettivo quanto deliberato dalla Comunità Europea a dicembre 2009, a conclusione dell'inchiesta su abuso di posizione dominante aperta su Microsoft nel 2008 dall'organo antitrust della Commissione Europea. In altri termini, non sarà più possibile per Microsoft fornire il proprio browser Explorer preinstallato con il sistema operativo Windows. Insomma, è lecito domandarsi, sta finendo un'era? Ennesima indiscrezione sull'affare Google Cina. L'attacco cinese al motore di Mountain View e a circa altri 30 motori di ricerca statunitensi a gennaio sarebbe stato un'operazione amatoriale. Secondo i periti di una compagnia di sicurezza informatica americana, l'attacco sarebbe stato compiuto da non professionisti, con attrezzatura, appunto, amatoriale. La Banca Mondiale lancia un videogioco per salvare il mondo. Si chiama Evoke ed è aperto a tutti. Lo scopo è risolvere in 10 settimane 10 problemi globali, uno per settimana. Chi riuscirà con successo ad avere la meglio contro fame, povertà e conflitti otterrà dall'istituto il titolo di Social Innovator 2010. È stato presentato oggi a Milano Idea 360, il primo social media italiano creato dalla Fondazione Italiana Accenture, dedicato allo sviluppo dell'innovazione. L'indirizzo? Sul Twitter di Novalab24. Allora, noi abbiamo qua in studio Mauro Testa, ricercatore. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, lei che lavoro fa? Perché questo è professore di ergonomia all'Università di Pavia. Attenzione. Detto questo, ci spieghi che cosa fa? Perché in due parole, vediamo se è bravissimo. Noi sappiamo che è il papà di queste diavolerie che poi ci sono anche sui campi di calcio ed è il papà della nuova scarpa della Lotto che si chiama Zero Gravity, che è la prima scarpa al mondo da calcio senza lacci. Ed è anche il papà, adesso, se non sbaglio, della, cioè adesso leggo, del tacchetto rotante, che poi ci spiega che cos'è il tacchetto rotante. Sì, voglio scoprire chi è la mamma, comunque, una volta che sappiamo chi è il papà. No, nel senso che la mamma sono le persone che ruotano attorno a questi prodotti e che collaborano ovviamente al loro sviluppo. Cosa faccio nella mia vita? Che cos'è un ricercatore biomeccanico? In due parole è difficile dirglielo. Non ci riesce mio figlio quando glielo chiedono, no? Però diciamo a scuola. Diciamo che studio il movimento umano e cerco di relazionare il movimento umano a prodotti che creino benessere e prevengano infortuni, magari diano così un po' di performance. E quindi anche il piede. Assolutamente, il piede è la base d'appoggio del corpo. Sul piede, che è la base d'appoggio del corpo, mandiamo la scheda. E vediamo chi è Mauro Testa. Un calciatore fa centinaia di scatti in spazi brevi. Il suo piede deve ruotare in continuazione in modo da facilitare lo zigzag a destra e a sinistra. Le scarpe sono fondamentali, devono calzare come un guanto e nello stesso tempo permettere un controllo di palla e un tiro migliori. Insomma, sui campi è obbligatorio coniugare il comfort con le prestazioni. Esattamente quello che Mauro Testa, 51 anni, docente di ergonomia all'Università di Pavia, studia da anni in laboratorio. Sono almeno 20 anni che Testa è uno dei maggiori scienziati italiani del piede e da una quindicina si occupa di sport e sportivi, con collaborazioni a varie federazioni e società. Per la Lotto di Trevignano, in provincia di Treviso, 300 milioni di fatturato, il 75% dei quali all'estero, 500 dipendenti nel mondo, Testa ha appena realizzato Zero Gravity, la prima scarpa da calcio senza lacci. Uno studio di 8 anni, iniziato appena terminati i mondiali del 2002 in Corea e Giappone, e che darà i suoi frutti nei prossimi campionati in Sudafrica. Ne è uscita una scarpa costruita con materiali speciali, all'interno e all'esterno. Un autentico prodotto high-tech. Quindi Zero Gravity com'è nato? Non hai lacci, quindi non c'è... 8 anni di studio. Cioè, sì. 8 anni però, 8 anni di studio per togliere i lacci, no? No, e non è una cosa così banale togliere dei lacci, visto e considerato che nell'immaginario collettivo la scarpa si chiude coi lacci, poi è arrivato anche il velto, ma nel calcio soprattutto, cioè l'immagine del calciatore chinato a terra che si stringe i lacci per rendere... Per perdere tempo. Per rendere più intima la scarpa al suo piede, è un immaginario collettivo. Ma io direi che sì, 8 anni sono stati più che sufficienti per sviluppare un prodotto che si chiama Zero Gravity, perché è leggerissimo, e che soprattutto oggi è calzabile in tutti i tipi di piede, quindi coloro che hanno il piede col collo alto, che difficilmente calzerebbero una scarpa di questo tipo, invece oggi riescono a farlo. Soprattutto non è una ciabatta, perché tanti pensano che poi una scarpa senza lacci non stia nel piede. Balla! No? Balla al piede, invece non è vero, no. Anzi, calzata millimetrica. Assolutamente, noi abbiamo misurato tutte le forze che il piede sviluppa durante un'attività calcistica, e quindi sia i cambi di direzioni nella corsa, quindi forze di tipo verticale, forze tangenziali, quindi laterali, che servono al calciatore per essere performante, per sfuggire al suo avversario. Allora, io do il numero di telefono, perché sicuramente ci saranno ascoltatori che avranno una domanda cattiva. 824 0024, gli sms 349 238 6666, stanno già arrivando. Insomma, una domanda è: questo tacchetto rotante cosa serve? Cos'è il tacchetto rotante? Il tacchetto rotante sarà parte integrante anche di questa nuova scarpa che voi avete citato per i mondiali del 2010 in Sudafrica. Serve ad evitare attriti inutili tra piede e terreno. L'interazione piede umano, scarpa e terreno è un'interazione importante per eliminare degli infortuni tipici del calcio o degli sport con cambi di direzione. Quindi il tacchetto rotante è più sul versante di prevenzione degli infortuni o prestazione maggiore? Entrambi, scatto maggiore? Entrambi, perché capite, se io riesco a uscire da un cambio di direzione con un piede che non è vincolato al dover superare un attrito incredibile, ne esco più in equilibrio, quindi riesco a compiere questo gesto in un modo molto più naturale secondo quelle che sono le mie affinità personali, e quindi riesco a essere più prestativo. Perché Testa, lei ci spieghi un attimo, quando un atleta è in corsa e deve fare un cambio di direzione, ha sull'avampiede, sì, quanti chili ha sull'avampiede? Beh, noi abbiamo misurato dai dilettanti arrivare ai professionisti da 150 a 200 chili in 2 centimetri quadrati, che sono generalmente posti alla radice dell'alluce, che in termine medico si chiama primo metatarso. Quindi pochi centimetri, quanto sì, ha detto? 2 centimetri quadrati. Sono 2 centimetri quadrati, sono un 2x2, che è più o meno la zona che noi abbiamo identificato con i nostri strumenti, su cui abbiamo messo... Dove ha 3 volte il peso del corpo. Sì, se lei pesa 200 diviso 3, sì. Diciamo che generalmente non è legato tanto al peso del corpo quanto alla velocità, quanto al tipo di cambio di direzione. Chiaro che un cambio di direzione di 180 gradi impegna molto di più muscolatura. Calcolate che in una partita noi abbiamo calcolato da 1000 a 2000 cambi di direzione. Quindi pensi che sforzo su quei 2 centimetri quadrati. Senta Testa, ma adesso ci deve spiegare, per i nostri ascoltatori, per gli appassionati di calcio, allora, quali sono i vantaggi di questa Zero Gravity? Senza lacci, con la tomaia in microfibra, cioè tutta high tech applicato al pallone, ma in concreto che vantaggi hanno? È doping tecnologico per un purista che farebbe andare a giocare tutti a piedi nudi comunque. Vabbè, comunque. No, è doping tecnologico. Allora, non voglio farne uno spot pubblicitario, vi posso dire che la dote naturale rimane e resta assolutamente il bene principale per un atleta di qualunque disciplina. Quindi, i piedi buoni ci vogliono ancora. Assolutamente, cioè quello non per nulla, molti nel mondo dello sport dicono che se vuoi vincere un'Olimpiade ti devi scegliere i genitori, quindi molto dipende da genetica. Genetica, bravissimo, quindi non andiamo al di là di quello che il nostro buon Dio è riuscito a metterci in ognuno di noi, ma sicuramente l'attrezzatura aiuta, quindi una scarpa senza lacci aiuta nella sensibilità del piede, quindi quando io calcio la palla ho un maggiore feeling, un maggiore rapporto con il pallone e quindi lo sento meglio, i miei ricettori neuromuscolari lo ricevono meglio, ho una migliore gestione anche della scarpa, perché non esistono strutture con elasticità diversa. Ma se la usassero Del Piero o Pirlo, sarebbero ancora più precisi nei tiri di punizione? Ma io penso di sì, mi permetto di dire di sì. Mi permetto di dire sì. No, c'è un ascoltatore semplicemente che dice: se non può più usare immaginario collettivo che ha un effetto sinistro. Non so se l'ha detto immaginario collettivo. L'ha detto. Ha un effetto sinistro. Non lo sapevo. Nova Lab 24. Eccoci, 16:46. Non parlate tutti assieme. C'è qui Pierangelo Soldavini che ci ha raggiunto. Buonasera, c'è un ascoltatore in linea. Alessandro dalla provincia di Milano. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego la domanda. Io volevo sapere, io gioco nei campionati minori della provincia di Milano e spesso comunque i campi non sono regolari, immagino che questa scarpa qua sia stata concepita forse più per campi regolari, volevo sapere se potevo trarne qualche beneficio da una scarpa del genere sui campi irregolari. La scarpa democratica mi sembra giusto. Testa, è si vero. Può usare anche addirittura nei campi dell'oratorio. Ma io allora... Alessandro, buon pomeriggio intanto. Grazie. Dunque sì, posso dirle che io sto seguendo da 6 anni gli studi della Federazione Italiana Gioco Calcio proprio sulle superfici, sia in erba sintetica che naturali, di qualunque tipo, dalle più belle degli stadi professionistici a quelle in terra battuta, in porfido, che è quello a cui lei probabilmente si riferisce. Sì, la scarpa è un 13 tacchetti, il twist and go aiuta moltissimo in quelle superfici dove c'è un forte attrito come il sintetico o nelle superfici come in porfido. È chiaro che se lei va a giocare su una superficie dove ha piovuto per 2 settimane, beh, lì è meglio cambiare calzatura e mettere una scarpa 6 tacchetti, però questo tipo di calzatura è stata studiata per adattarsi a tutte le superfici possibili, quindi è anche, non è solo per super campioni, insomma, è per tutti. No, è stata fatta per tutti. Ricorderete l'immagine di un noto innovatore che era Henry Ford, che diceva che la vera innovazione è quella che è disponibile a tutti, sia in termini ovviamente commerciali. Però la nascita di questa innovazione com'è? Cioè, qual è il rapporto tra le aziende, la ricerca, l'università? Cioè, c'è un giro virtuoso? C'è qualche cosa? Ma io ho avuto la fortuna, perché di fortuna si tratta, perché quando si incontrano persone speciali bisogna parlare di questo in questi termini, di incontrare in lotto intanto uno staff incredibile, ragazzi motivatissimi, persone straordinarie, guidate da un imprenditore secondo me al di sopra del normale, che è Andrea Tomat, che vede nell'innovazione veramente il futuro della sua azienda ed investe in questo, cioè è un uomo che non ha paura a rivolgersi alle università, quindi ha la giusta dose di consapevolezza di sé ma anche di umiltà, e riesce a fare insieme alle università il bene della sua azienda, il bene dei quindi suoi clienti. Quindi testa, la scarpa, che è un, insomma, le calzature noi le vediamo come un settore maturo, no? Ma almeno nella loro versione specialistica, iperspecialistica, come in questo caso, nascono nelle università. Nei laboratori universitari? No, Lotto è un caso unico, devo dire purtroppo, forse c'è un'altra azienda in Italia che investe, che investiva perlomeno anche in termini di ricerca con dei dipartimenti di ingegneria, calcolate che all'Università di Pavia io collaboro con sia bioingegneria che con scienze motorie, quindi ci sono tutte le due anime del movimento all'interno di questa collaborazione, ma Lotto credo che sia un caso unico, ma addirittura a livello mondiale, perché io so che sì, anche le grandi aziende investono nella ricerca, ma investono più che altro per avere un endorsement, cioè per avere una certificazione, non investono per innovare veramente il prodotto, l'idea nasce all'interno dell'azienda e loro sono gelosi di questa loro capacità innovativa e poi chiedono alle università di certificare le loro idee. Sì, è un altro paio di mani. Lotto ha fatto un processo diverso, cioè diametralmente opposto, sì, mi pare. Pierangelo Soldavini. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di scarpe di piedi, adesso faccio un salto un pindarico, po', sì, un po' doppio, azzardato, però come dire, su Nova di domani di che cosa parliamo? Un po' di piedi, con quale si muove una società tecnologica informatica. Sei l'uomo ragno, cioè non è... Sto non cercando è... di portarla... Sì, Caltware, il titolo. Parliamo di software, che è un po', come dire, quello che pervade tutta la... Parliamo la della cultura del software. Di chi scrive il software. Di chi scrive software. E di chi, in qualche modo, inconsapevolmente... ci risolve dei problemi, ma determina anche la nostra vita, perché dietro tutti gli oggetti che utilizziamo ci sono dei programmi, delle anche credo dietro alle scarpe ci sarà stato sicuramente un programmatore informatico che ha fatto lo studio in 3D, poi ha cercato di vedere l'aggiunta dei materiali. Insomma, il software è ovunque, e noi abbiamo preso spunto da il nuovo libro di Lev Manovich, Software Culture. Ce lo siamo letto tutto, l'abbiamo studiato e abbiamo provato a dare un volto italiano a questa industria, a questi personaggi che tra l'altro sono stati definiti loro, c'è una cosa carina dei programmatori, che sono definiti il miglior programmatore è quello che ha studiato fisica, mi hanno detto, perché solo chi conosce le leggi della fisica può rimodellare il mondo. Bellissimo. È bellissimo, è vero, perché di fatto un programmatore è una persona che, come in Matrix, entra nelle cose e le deve ricostruire dall'inizio, cioè con passo passo logico, cioè sì, con passo logico, soprattutto cioè per trovare una soluzione, per esaminare il problema, come dire, dettagliare i vari passi e trovare la soluzione. Ecco, le implicazioni di questo mondo di software sulla nostra vita è un tema apertissimo, nel senso che rispetto alla generazione mia di Mangiaterra e di Sondavini, cioè cosa succede? Oggi il software è di fatto uno strumento culturale, gente scrive blog, si producono video, si fa arte, si costruiscono prodotti. Allora, l'impatto che hanno questi software o la cultura del software su di noi, insomma, è tutta da capire. Però è vero che il software sono come quei 2 centimetri quadrati, no? La base su cui appoggia oggi tutto il sistema. Che determina, esatto. No, questa è la cosa. Soprattutto, tornando alla metafora che usavi prima, cioè di chi scrive dei blog e così, non è più la penna che passa dalla penna d'oca alla penna, ma è proprio un sistema che determina poi che cosa scrivi. Abbiamo detto tutto, ringraziamo il nostro ricercatore di biomeccanica, adesso andremo a vedere tutte le altre innovazioni di questo tipo, perché secondo me sono interessanti. Ringrazio Sandro Mangiaterra, Pierangelo Soltavini, il tempo è finito, domani alle 16:30 ci vediamo. Ciao a tutti.